Lorenzo è il frontman, il boss della band I Muri. Abbiamo appena ascoltato la loro canzone che si intitola 200 sigarette. Ora, Lorenzo, prima domanda. Sì. Pronto, fermo lì. Che stai facendo? Così. Sto guidando, meglio non dirlo. No! Accosta subito. Vabbè, dai, col Bluetooth si può fare. Va, sì, adesso è apparso un Bluetooth. E va bene. Carabinieri, arrestato. Vabbè. Siamo appena passati, tra l'altro. Vabbè, se non ti sentiamo censura, più, censura. È perché abbiamo capito che sta passando la volante. Tu nel caso butta subito il cellulare sul... Sì, mi butta proprio fuori. No, tu no, solo il butta solo il cellulare sul sedile di fianco. Allora, no. No, ma al Bluetooth. Ok. Vabbè. Ascolta, il nome la band, no? Si pronuncia sì. I Muri, com'è il nome? I Muri. Semplicemente una questione grafica, non mi andava, non ci piaceva di mettere, non so, I staccato Muri proprio. Okay. Perché di fatto è significa muro, cioè barriera. Ah, ok, quindi... sì, è il plurale di muri, ok. Sì, perché sì. Voi il nome della band, I Muri, si scrive con la I piccola e poi M maiuscola Uri, no? Quindi ho anche pensato, sai vedere che tipo l'iPhone, come c'è iPhone, c'è I Muri. Cioè, non sapevo come pormi nei confronti di questa cosa. E invece potrei adesso... sviluppare un'altra, potrei inventarmi qualcosa. Sì, la I Muri, per seguire I Muri, che oltretutto, seguendoli, voi venite a Bologna tra sì, qualche giorno, il 14. Questo giovedì, sì. Questo giovedì. Sì. Per San Valentino. Sì, al Cortile Caffè ci sarete voi. Sì, già. Infatti, per San Valentino, data romantica. Strano, mai suonato San Valentino. Dai, sarà un'esperienza nuova. La tua ragazza che dice? La tua ragazza e il tuo ragazzo, che dicono? Che non so. Beh, attualmente, diciamo, sono sprovvisto di partner. Ah, sì. Vabbè. Beh, chissà, in quel di Bologna potresti trovare. Sicuramente. Vedremo. Stai a vedere che galeotta la data. E vabbè, senti, in questi casi, sai, a volte si chiede all'artista, si chiede qual è la poetica della band, dell'artista. Qual è la poetica dei Muri? Poetica intesa? Di cosa parlare? Di cosa vogliono parlarci i Muri con le loro canzoni? Ok. Allora, guarda, semplicemente di quello che viviamo noi comunque ogni giorno, cerchiamo di non sottovalutare fondamentalmente poi uno degli aspetti più importanti, che è la verità di ognuno, nel senso che cerchiamo sempre di costruirci, no? Mm-hmm. un abito che troppo spesso non è il nostro. Però ci mascheriamo un po', mettiamo un po' di mascherine. Esattamente, ma diciamo sotto molti punti di vista. Noi in realtà cerchiamo di essere più sinceri e più veri possibile, cercando di raccontare appunto la nostra generazione, il quotidiano, le esperienze appunto dell'amore, della vita. Quanti anni avete più o meno, Lorenzo? Di che siete? L'età media della band, diciamo 25-27 anni. Ah, io okay. E Antonio siamo i più grandi, siamo sulla trentina e gli altri sono un po' più giovani. Senti, non ho trovato nel vostro comunicato stampa di dove siete? Siamo abruzzesi. Ok, di dove? Dislocati in vari... Allora, io sono teramano. Vabbè, okay. Antonio, l'assista, è sempre della provincia di Teramo. Mm-hmm. Il Giulianova, insomma, zona del mare. Il batterista Valerio Atri. Ok. D'arte, e l'altro ragazzo Marco Fontana è dell'Aquila. Ah, ok, quindi tutti abruzzesi. L'Abruzzo, che è storicamente la mia terra di conquista, ho avuto un sacco di intrallazzi con ragazze abruzzesi, quindi sai. Bene. Quando si dice ci rubano il lavoro, ci rubano le donne, ecco, lo faccio anche io che sono calabrese, sì, e mi prendo via le abruzzesi. Va bene, Lorenzo, allora noi ti ringraziamo e ricordiamo appunto l'appuntamento per giovedì 14 febbraio, la sera di San Valentino, al sì. Cortile Caffè con I Muri. Grazie a voi ragazzi, ci vediamo giovedì. Va benissimo, giovedì. In bocca al lupo, e se trovi un partner entro questi tre giorni, fai come la Zoe de Chanel in 500 giorni insieme, diglielo. Te lo faccio sapere, magari. Tu digli, mi piaci ma non voglio nessuna cosa seria, mi raccomando. Ciao, okay, Lorenzo, okay, ciao. Ciao.